C'era una volta l'Italia, dei sogni e degli anni di piombo, dello storico compromesso, in un mondo che andava cambiando. C'era una volta l'Italia, del benessere e del progresso, dei jeans a zampa d'elefante, l'Italia del primo consumismo. C'era una volta l'Italia, delle battaglie sociali, dei nuovi stili di vita, l'Italia delle cambia. C'era una volta l'Italia, degli hippie e dei figli dei fiori, delle gonne sempre più corte, delle prime TV a colori. C'era una casa in campagna e un bar con il jukebox di fuori, che per poche lire cantava piccola Ketty e pensiero. C'era una volta l'Italia della rivoluzione sessuale, delle femministe per strada, l'Italia dei referendum. Ma qualcuno ha creduto lo stesso che un figlio fosse più importante dei suoi spensierati vent'anni o di una Ducati Scrambler. Qualcuno ha fatto la sua scelta senza farsi mai influenzare dai conformisti borghesi vestiti da rivoluzionari. Grazie dell'amore, grazie della vita, delle notti insonni, la paura e la fatica. Grazie della fede in un figlio non desiderato, ma poi mille volte amato, firmato maggio 76.